Ho lavorato nella campagna End Climate Change, Start Climate Change, che è un progetto di ricerca ma anche di comunicazione e disseminazione con metodi alternativi, e sul nesso tra due dei fenomeni che caratterizzano il nostro tempo, quindi il cambiamento climatico e le migrazioni, quindi persone che sono costrette a muoversi, a spostarsi sia internamente ai confini nazionali sia a livello internazionale a causa della crisi climatica. La campagna è stata portata avanti da 16 partner in 13 paesi europei e è stata guidata dall'associazione WeWorld, organizzazione impegnata da più di 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 25 paesi del mondo, compresa appunto l'Italia, quindi la sensibilizzazione nel nostro paese. Cosa emerge dalla ricerca che avete effettuato? Sì, come dicevo, l'Università di Bologna ha portato avanti la ricerca in maniera interdisciplinare in 4 paesi che sono appunto Senegal, Guatemala, Cambogia e Kenya, ma essendo il progetto è iniziato proprio a marzo 2020, la ricerca è iniziata a marzo 2020, quindi un po' sotto la cattiva stella del Covid, siamo riusciti a essere fisicamente presenti solo in Senegal nel maggio 2021, negli altri paesi invece abbiamo condotto la ricerca da remoto, e quello che è venuto fuori prepotentemente è che la crisi climatica viene spesso dipinta come mero disastro prettamente naturale, e ciò però maschera sia le responsabilità sociopolitiche sia le diseguaglianze globali al cuore della crisi stessa. Quindi quello che abbiamo provato a fare è denaturalizzare la crisi climatica, quindi abbiamo cercato di far capire l'interconnessione dei diritti, che sono appunto il diritto alla mobilità, il diritto di vivere in un ambiente sano e la disparità di accesso a tali diritti in tutto il mondo. Il passo successivo è stato poi quello di provare a sfidare i tratti allarmistici e spesso razzializzati con cui vengono dipinti i cosiddetti migranti climatici, perché ciò alimenta questa paura del nord globale di minaccia e di invasione da parte del sud, del cosiddetto sud globale. Quindi la nostra ricerca ha voluto proporre un'immagine, seppur complessa, quanto più reale dell'intersezionalità sia dei diritti che delle tematiche del progetto. E quindi quali saranno appunto i temi principali di questo dibattito? Come verrà strutturato? Allora, io parlerò principalmente di narrazioni, cioè cosa succede quando la narrazione dei cambiamenti climatici incontra la narrazione delle migrazioni, cioè quando appunto si parla di migrazioni ambientali, quali sono le prime cose che vengono in mente alle persone? Tendenzialmente si pensa a queste ondate, queste invasioni di tantissime persone dal sud globale verso il nord, e ciò va a alimentare non tanto la protezione stessa delle persone con dei cosiddetti migranti climatici, ma va poi a proporre un continuo controllo della frontiera, va a alimentare più la paura di invasione che l'effettivo presa in causa di questo fenomeno. E quindi anche all'interno del progetto abbiamo cercato di sfidare questa percezione di minaccia e metterci in discussione, mettere in discussione appunto anche il fatto che i migranti ambientali possiamo essere noi, come è successo, gli ultimi fatti che hanno colpito la nostra regione hanno fatto percepire. Poi ho visto che ci sarà anche un momento prima del dibattito pubblico dedicato ai giovani. Sì, perché i giovani erano e sono al cuore del progetto del End Climate Change, Start Climate Change. Loro erano il target principale, e attraverso l'impegno diretto dei giovani, appunto, li abbiamo voluti coinvolgere in molte delle attività del progetto, e quindi anche in questo evento, l'evento di domani, saranno al centro del dibattito.